c'è ogni giorno una partenza, ma non aspetto più un arrivo, e intanto vivo nell'istanza senza data di scadenza su. Così ho finito la speranza, quando il mio punto esclamativo piegò la schiena come un'ansa, e interrogativo diventò. Quanto sono, chi fui, per correre a vedere chi sarò, tra l'obbligo e l'oblio, giocattolo di un Dio, col nome e il numero, io sono quel gabbiano in gabbia, che piange la di vetro, acqua lasciata sulla sabbia, che tornare al mare più non può. Indietro quanto tempo ho per la mia buona uscita, prima o poi da questa vita, o manca ancora un po', in fila coi vassoi, davanti ai pisciatori, c'è da aspettare o no, per quando tocca a noi, che siamo comici che piangono, pubblici che non ridono, siamo angeli che imprecano e demoni che pregano. Quanto tempo ho per chiedere di avere un giorno in più, che pure un giorno in meno che io avrò, per spegnermi qua giù, con occhi da Gesù, buttati al cielo. Quanto tempo ho per vivere di questa malattia, di vivere e morire, io non so, prima che tutto sia, e vivo l'agonia di quanto tempo ho. E te, te, te, te, te, te, te, te, te.